sulla spiaggia e canta mio diva dei peli del culo di mamma ta. A balla tarantella di no globo, altri balli sitta trippo troppo stroppia. A catatina casa in Afghanistan, stana i nemici su all'alberello da cuccagna. Maniacate passa meglio sorridere con cognizione. Bucati di bambini, buone prospettive di un futuro transgenico. Illusioni da palcoscenico, lo show da Shalme Sheikh a Chirac, Mishan Karu, i cui tuna già sotto shock, shaking to lenzolo. Marzo piru puru quando penso cam paru, culu cu pensiero, pensa quanto è libero. Giri concentrici di verità, si parla e non si parla per pietà, ma carità da sala a casa prima che sia tabula rasa. Basa terra finché c'è, concentrati sulla realtà per astrarti e ribaltarla. M-O-C-C-V da L-O-C-R-I, insieme a spreco ed L-C. È un'altra storia che si chiude, ma guai chi si allude. Ci aspettano altre prove, il nostro viaggio inizia qui. Ci aspettano le crisi, i giorni neri, quei momenti in cui ti chiedi per quale cazzo di motivo scrivi. E ancora giorni interi, solo foglio penne i tuoi pensieri. E allora ti chiedi perché non scrivevi. Innamorati persi dei pavimenti a scacchi, della scuola, dei maestri, dei block party. Contatti tra passato e futuro, tra vecchio e nuovo sono sempre più stretti. Yeah, basi solide per nuovi progetti, sogni che non entrano più nei cassetti, ma restano nitidi in testa. Rap, no fobia, il primo tra questi. Brucio i tempi, straccio accenti, uso termini più noti per comunicarti, non distratti. La sociofobia è una moda che ti spinge a farti grande davanti agli altri. Rap, no fobia, è ciò che voglio consigliarti. Smettere di vivere non può aiutarti. Hip hop e le diverse arti, Whiters, B-Boy, possono ridarti voglia di vivere, scrivere, esprimere. Adrenalina 100 quando un treno ricomincia a correre. Impazzire per il rumore di uno spray, poi gli scratch su di un sample, il loop e il freestyle. Rap, no fobia, skinny grey in 100 metri di block style. Mega jam fra titani, sopra il beat delicato come lo tsunami. Strage di innocenti e fight tra cristiani. Nell'era delle tech ancora cala in mani, dimentica il bignami. Dal 9-7 sbroglio tra simmetrica, addio bioetica. Sulla costa dei veleni appaio come Fatima. La massa biasima, lo scarso lati dalla tipa. Anzi, ma la M con il 9 transita. Allontanarsi dalla linea gialla, continuo nonostante tutto e rimanere a galla. Nel profondo sud con il giusto mood, sopra finger food, spalmo nduia. Brindisi, fazze spose pure al boia. Mastico doppia H quanto tu spari caglia. Piccinacci senza balia, non vengi a Limca Beach, passo dal Budalia. Lì sorseggio capi rosca, poi fronteggio capi cosca. Rinfraseggio lirico com'è la Tosca. State cagati, si non capisciti, com'è Riccardo. Muti, state seduti, primo atto dello show in modalità non versi improvvisati. Dammi carta bianca sopra il M9 Shanka. Era il 95 ed ascoltavo Radio Sole, mentre le mie rime erano pessime come natura vuole. Ospite VP, mandavano chicche dalla Insta, la motherfucking G's original import from Risk. C'era chi chiamava per il bis, come senti mi capisce. Noi dimentiamo sutta, a 15 anni in sede calava una serranda. My first kiss to my first Buddha, pantaloni larghi, Little South Soldar. E se calavi a mare era una guerra di rime da mezzo giorno a notte, fonda mezzo Italia repava presa dalla bomba. È tempo di togliere il coperchio dalla tomba. La locride ritorna e quando torna sfonda. È un'emozione astratta e magnifica, e quando arriva impatta e prolifica. In un momento scatta ed amplifica il suono che semplifica i problemi e ti gratifica. Non puoi descrivere a parole ciò che provi quando col microfono in mano deliri rimando. Con un federo, un piatto ti esprimi scracciando. A volte dicono che sono matto, yes sir. Se vuol dire anteporre la passione a tutto e continuare a coltivare anche se non c'è frutto, o perlomeno non di quelli a breve termine. Parlo meno e penso a piani di prim'ordine per evadere da qua, e la mia gente lo sa. Da Verona all'Ocri scopri chi ci sta, e lo fa per vocazione, non per emulazione. Un solo amore per tutte queste persone. Sento il suono delle forbici che tagliano le mie radici, sono vicine. Ritmiche, cicliche, bisturiche, recidono il limite. Potrò mai fermarle? È una domanda tra le domande, tra le tante. Le mie vene sono piante, per la terra sono sante, per il mondo il loro mondo è insignificante. La musica è un istante per chi non sente veramente. Siamo nei turbini della mente e stanotte venga a prendere te per sempre. Se il mio cuore pompa sangue, il tuo culo di sicuro è sanguinante, profondamente. Questo è l'eco che sale su dalla terra mia, una una voce dal sud, una grande tribù. Usa il rap come mezzo e l'hip hop come via. Anche da ste parti, ma la roba non cambia. Aumenta la barba come cresce la rabbia. E cerco di stare leggero e penso alla sabbia, all'odore di mare, al mio sole che scalda. E me la prendo con calma, tanto che in tanti giocano a fare la farsa. Si creano mille picce, alla fine manco un anno spicci in tasca. Chi sale perché parla, per gravità prima o poi ricasca. Sparano parole usando il rap come un'arma, una matassa di mediocre storie da massa. Creano soltanto tanto marasma, ricercano la fama, che poi di fame e di fama si tratta. Gente che picchia in lava vucca, parla stessa che quando un lavo fa ci scappa. Rispetto ad ogni bimbo e fiero d'Italia, invece chi infanga, get the fuck up. Hai mersi pe Joker că mi-ai dat cuvântul. Intru ca la poker, silențios ca vântul. Hai să învârte beat-ul, se învârte și pământul. Curge berea vinul, învârte și tu joint-ul. Să ne facem plinul, că ăsta e elementul. Să sune sfântul beat fără oprire ca dementul. Acum vine rândul să-mi descarg gândul. Epitico on the mic, ce-ai zis sau că mă vis fundul. Dau stil român, american sau ca la prezic. Și eu cum mese sunt un creator, creez. Fac crime că îmi place, mă ajută să evadez. Că această realitate nu mă lasă să visez. Le-am încercat pe toate de să tu să tot testez. Mai cu singura scăpare și n-am să cedez. Încerc să vă amuzez, fac crime din ce trăiesc. Dați un mic, vă rog, lăsați-mă să evadez.